A bordo campo. Sudafrica 2010. Nel cuore del mondiale. That is it. The final whistle in South Africa. Win this Rugby World Cup final. Parliamo di rugby oggi, sulla strada verso Sudafrica 2010. Eh sì, perché il Sudafrica sarà il palcoscenico del primo campionato del mondo di calcio che nella storia si svolgerà nel continente africano, ma la vera religione in termini di sport della Rainbow Nation è proprio la palla ovale, anche se poi sappiamo quanto sia soprattutto la popolazione bianca ad essere più legata al rugby, i neri più legati al calcio, e come anche queste divisioni, fortunatamente con la caduta del regime segregazionista, stiano lentamente a loro volta cadendo. Beh, però parliamo del rugby e di cosa vuol dire questo sport per il Sudafrica, e lo facciamo veramente con due grandi campioni del rugby italiano che sono però strettamente legati al rugby sudafricano. Massimo Cutita, benvenuto a Radio 24. Grazie, un piacere. Massimo Cutita, grande campione del nostro rugby, oggi allenatore degli Avanti nello staff tecnico della nazionale scozzese. Lo sappiamo bene perché con la Scozia abbiamo giocato e vinto fortunatamente anche nell'ultimo Sei Nazioni, e nostro ospite è il gemello di Massimo, Marcello Cutita, anima e cuore dell'Amatori Milano. Buongiorno Marcello. Buonasera, grazie. Allora, perché i gemelli Cutita? Beh, perché oltre a essere bandiere del nostro rugby, sono anche due grandi fratelli gemelli che hanno vissuto a lungo in Sudafrica, vero Marcello? Come siete arrivati in Sudafrica? Ma guarda, noi abbiamo avuto la fortuna che i nostri genitori si erano trasferiti per motivi di lavoro negli anni 60, quindi siamo cresciuti in una famiglia italiana nella savana sudafricana, e da lì e poi abbiamo iniziato a fare le scuole, tutta l'altra fila dello sport che si fa nelle scuole, e per fortuna nostra siamo arrivati a giocare questo splendido sport che è il rugby. A fine carriera scolastica siamo andati a giocare all'Aquila. Eh sì, e poi tra l'altro insomma un palmarès arricchito da tanti record anche in maglia azzurra per Marcello: 3 campionati del mondo, 87, 91, 95, 2 insieme proprio a Massimo, quelli del 91 e del 95, quello del 95 lo sappiamo è quello che in qualche modo con la vittoria degli Springboks segnò la nascita della Rainbow Nation del Sudafrica riunito dopo la caduta dell'apartheid. Massimo, che ricordi hai del Sudafrica da bambino? Del rugby che giocavi da bambino nelle scuole sudafricane? Ma un bellissimo ricordo, siamo stati fortunati a crescere in un ambiente così dove il rugby era tutto. Per fortuna nostra c'era il rugby e siamo cresciuti insieme a tutti questi ragazzini divertendoci tantissimo. Erano però ancora gli anni dell'apartheid, immagino che i segni e le ferite di questo regime fossero quanto mai evidenti nelle strade. Ma a dire la verità non c'era tutto questo gran, non c'erano tutti questi disordini, noi non eravamo proprio al corrente di tutta questa roba. Loro avevano le loro location dove andavano e i bianchi abitavano nelle città, questo sì, questo era evidente. Diciamo che il rapporto tra noi bianchi e loro era ottimo comunque, pure allora. Chiaro. Non c'era tutto questo astio, direi. Era una segregazione talmente forte e definita quasi da risultare paradossalmente quasi non visibile ad occhio nudo. Sì, io direi di sì, perché anzi io sono contento di essere cresciuto in quell'ambiente, insieme anche ai neri, quindi bella cultura, perché abbiamo anche imparato le loro lingue a scuola, quindi c'era comunque già da piccolini c'era l'attitudine di far conoscere la lingua loro, quindi c'era questa volontà di andare verso dove siamo arrivati adesso, diciamo, a farlo diventare un paese libero. Marcello, ecco, i grandi campioni della vostra infanzia, tutti noi da piccoli nel nostro sport di riferimento avevamo i nostri idoli, quali erano i campioni sudafricani che più ammiravate? Ma noi, per noi chiaramente erano tutti rugbisti, perché all'epoca si viveva proprio il rugby, no? E quindi avendo una nazione che poi era segregata perché c'erano le sanzioni, lo sport internazionale non era visibile tutti i giorni come lo è in Italia. Per me personalmente il mio idolo era Ray Morto, Harry Hermeses, che erano le due ali che giocavano per la nazionale sudafricana. Era lo sport sudafricano in quegli anni, come ricordavo, vittima, causa appunto della condizione politica del boicottaggio, no? E sappiamo anche quanto questo abbia influito poi sulla caduta del regime dell'apartheid. Immagino una grande sofferenza per chi invece dello sport voleva fare la sua ragione di vita. Assolutamente sì, ed è stato proprio lo strumento che ha spronato un attimo i sudafricani a fare questo cambiamento. Per fortuna c'è stato il 95, proprio il mondiale del 95 in Sudafrica è il risultato finale di un popolo che ha voluto fortemente questo risultato, non solo sportivo, perché lì non si trattava solo di vincere la Coppa del Mondo, ma si trattava, come lo fa vedere benissimo Clint Eastwood nel film, era proprio unire un popolo, e ci sono riusciti tramite questo veicolo che era lo sport. Massimo, una Coppa del Mondo che voi affrontaste insieme nelle file della squadra italiana, immagino da brividi tornare a giocarsi una Coppa del Mondo nel paese dove si è cresciuti. Sì, un'emozione incredibile, anche perché noi siamo tornati anche alla nostra vecchia scuola, dove c'erano 1500 ragazzi che ci aspettavano e che ci hanno accolto. Veramente una cosa bella, anche perché noi come fratelli eravamo considerati i primi ambasciatori del Sudafrica, secondo loro, i primi che avevano avuto la possibilità di andare a giocare all'estero e far conoscere un pochino il rugby sudafricano, quindi per noi è stato veramente un onore. Ci fu in quel mondiale anche una meta che vi unì, vero? Una meta che Massimo segnò e che dedicò a Marcello, che in quel momento era in panchina. Era in tribuna, esattamente, contro l'Inghilterra, no? L'Inghilterra a fine partita, sì, pioveva a dirotto e proprio a fine partita riuscì a fare una meta di sfondamento, sì. Sì, a Durban, 31 maggio 1995, la prima partita. Nello stadio, diciamo, nostro, dove eravamo cresciuti, in pratica. Insomma, esultanza doppia, cosa pensaste in quel momento, Massimo? Che i sacrifici che uno fa per tanti anni, alla fine si ricava delle belle soddisfazioni, quindi ne vale la pena fare sport, anche se è durissimo, e alla fine c'è sempre qualcosa di bello, ti regala sempre tante soddisfazioni lo sport. Marcello, tanta rabbia nell'accettare quella decisione di George Coste, che ti aveva appunto relegato in tribuna dopo la prima sfortunata partita contro Western Samoa, no? Ma guarda, tornando indietro mentalmente, ritengo che probabilmente di aver gestito male la situazione insieme a George Costa. Secondo me, se ci parlavamo un attimo, avremmo risolto il problema. Tanto l'importante era che un fratello segnasse una meta e l'ha fatto, quindi un cutita c'è stato che ha segnato. Eh sì, direi proprio di sì. Dicevamo di quel mondiale del 95 che sancì la nascita della nazione sudafricana unita, no? Grazie allo straordinario gesto di Nelson Mandela, che il giorno della finalissima contro la Nuova Zelanda si presentò allo stadio, all'Ellis Park, con la maglietta degli Springboks, no? Il simbolo della nazionale di rugby, anche uno dei simboli più odiati dalla popolazione nera del predominio bianco. Beh, quel gesto di Mandela segnò la pace insieme alla vittoria sudafricana. Abbiamo raccolto ai nostri microfoni, immagino vi farà piacere sentirla, la testimonianza di chi invece quella coppa solo la sfiorò, anche pur essendo stato grande protagonista di quel mondiale. John Alomu, il campionissimo degli All Blacks della Nuova Zelanda, che, pensate, pur nel dolore per quella sconfitta, percepì che in quel momento stava succedendo qualcosa di grande in quello stadio. Allora sentiamo John Alomu. It was fantastic because, like, we saw South Africa, you know, as the tournament went on, they got more of a country together, and by the time the final came around, they were united as one. It was amazing, and I hope that sort of atmosphere is here tonight with Italy playing New Zealand. You know, meeting a great man, and you hear all the stories about him and what he had done and what he stood for, and to finally get to meet him and shake his hand is something that I'll never forget. Questo John Alomu, che l'avete sentito, disse: incontrai quel giorno un grande uomo, c'era un'atmosfera incredibile, quel grande uomo era Nelson Mandela, alla fine della gara ci strinse la mano, è un giorno che non riesco ancora oggi a dimenticare per l'emozione di aver incontrato Mandela, come se il risultato fosse passato in secondo piano. Massimo Cutitta, tu quel giorno eri in tribuna a Johannesburg, eh? io ero lì a vedere la partita, ho avuto la fortuna di essere lì e assistere a tutta questa bellissima esperienza. Devo dire una cosa importante, che Nelson Mandela usò lo sport per unire un popolo, una cosa grandissima, questo sta a dimostrare che comunque lo sport può veramente fare dei miracoli, e fece un miracolo, perché con quella partita riuscì a unire una nazione. Massimo, credi che anche il Mondiale di calcio di Sudafrica 2010 sarà in grado di riproporre lo stesso miracolo? Me lo auguro, spero. È uno sport diverso, per carità, però è sempre uno sport e penso che comunque qualcosa di positivo uscirà fuori da questo evento, direi. Un'ultima battuta con Marcello Cutitta. Beh, Marcello, ti chiedo innanzitutto un pronostico su questi mondiali di calcio e poi magari un ricordo legato al calcio vissuto in Sudafrica, no? Voi che vivevate per il rugby, magari un ricordo legato alla palla rotonda ce l'avete pure in testa. Il ricordo c'è, perché comunque noi seguivamo il 90° minuto via radio tutte le domeniche con nostro padre, quindi è un ricordo ancora visibile nella mente, che porta anche nostalgia. Noi in Sudafrica abbiamo vissuto benissimo, abbiamo dei bellissimi ricordi, ma soprattutto dei ricordi di una famiglia molto unita, e questo episodio che si ripeteva tutte le domeniche era importantissimo per noi. Mio padre era grande tifoso del Napoli, quindi eravamo lì in attesa di sapere i risultati e seguivamo attentamente quello che succedeva in Italia. Pronostico, sinceramente, non me la sento di darlo, perché c'è sempre la speranza che l'Italia tira fuori l'asso dalla manica e ripeta quello che ha fatto nell'ultimo mondiale. Ce lo auguriamo, penso, tutti gli italiani. Sicuramente ce lo auguriamo, che almeno gli azzurri abbiano il coraggio, la grinta e anche la simpatia dei gemelli Cutitta. Grazie a Marcello e Massimo Cutitta per averci raccontato il loro Sudafrica. Grazie mille. Per A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale di oggi è tutto. Un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete iscriverci alla mail a bordocampo@radio24.it. L'appuntamento con i mondiali di Sudafrica 2010 è per sabato prossimo alle 13.15, domenica alle 14.30, il consueto appuntamento invece con A Bordo Campo. Un saluto da Dario Ricci.